fanno così prezioso, a poco mi innamorai di te. Ma quest'amore tu ben lo sai, un giorno ormai per me non ho. È un sentimento così profondo che tutto il mondo per me si chiude in te. Nella mia mente non c'è che un solo pensiero, e questo solo pensiero sei tu. Ma tu non mi sai capire, e più io t'amo e più mi vuoi vedere soffrire. Io ti do tutto di me con passione infinita, e tu lo sai che per te darei pure la vita. Ma tu non mi vuoi capire, ed io non voglio più, non voglio più soffrire. E tu mi manchi, non sai quel giorno, a me d'intorno che vuoto resterà. E nel pensare non è più mia, se nostalgia mi vincerò. Io t'amo troppo, io t'amo tanto, e un gran rimpianto mi può tormenterà. Lo sai che soffro, lo sai che sono nell'aria, ormai per me necessaria sei tu. Ma tu non mi fai capire, e più io t'amo e più mi vuoi vedere soffrire. Io mi do tutto di me con passione infinita, e tu lo sai che per te darei pure la vita. Ma tu non vuoi capire, ed io non voglio più, non voglio più soffrire.